alta voce. Andrea Pennacchi legge Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. Decima puntata. Di nuovo, dunque, si camminava, squadra per squadra, plotone per plotone. Il sonno, la fame, il freddo, la stanchezza, il peso delle armi erano niente e tutto. L'importante era solo camminare. Ed era sempre notte, era neve e solo neve, erano stelle e solo stelle. Guardando le stelle mi accorsi che si cambiava direzione. Ma dove andiamo ora? E sentii che si ritornava a sprofondare nella neve. Dalla sommità di una mugila vediamo in lontananza dei lumi. Si vedono anche delle case, un villaggio. Antonelli ritorna a bestemmiare e il tenente a rimproverarlo e lui a rimandarlo nei bassi fondi di Verona. E Bodei mi chiede: «Sergent Maggiù, ci fermeremo là?» «Sì, sì, ci fermeremo», rispondo forte. «Ma che ne posso io sapere», penso, «se lì ci fermeremo o se ci passeremo o se ci sono i russi». «Ci fermeremo», dico forte, «per loro e per me». Il maggiore Bracchi passa vicino a noi. «Rigoni», mi dice, ma in maniera da farsi sentire da tutti. «Là troveremo un'isba calda, Rigoni». Nel paese però potrebbero esserci i russi. E così ci prepariamo per l'attacco. La mia compagnia è di punta, il capitano dà le disposizioni. A plotoni aperti scendiamo lentamente la mugila. Ogni tanto mi guardo attorno per vedere se gli uomini mi seguono. Tre panzer tedeschi vengono con noi. Accovacciati sopra vi sono i soldati tedeschi vestiti di bianco, immobili. Impugnano le pistole mitragliatrici, fumano in silenzio e ci guardano. La colonna si è fermata in alto a vedere cosa succede. Improvvisamente, dalla nostra destra entra velocissima un'autoblinda nera, passa davanti a noi come un fantasma, sfiora un panzer tedesco e allora gli uomini del panzer si accorgono che è russa. Ma come è apparsa, così scompare. E nel cielo si vedono i segni luminosi delle pallottole traccianti che la inseguono invano. Tutto è successo in un tempo così breve da rimanere stupiti e increduli. Ma riprendiamo a camminare in direzione del paese. Al suo ingresso vi sono due pagliai che bruciano e due camion che pure bruciano. Questi sono carichi di munizioni che scoppiano e mandano attorno fiamme, scintille e schegge come un fuoco d'artificio. Passando vicino sentiamo il calore e ci si vorrebbe fermare lì a godere quel caldo di paglia, di camion e di munizioni che bruciano nella notte. Attraversiamo un fiume gelato profondamente incassato tra due rive ripide. Dall'altra parte ci fermiamo ad aspettare i panzer tedeschi. Da un buco fatto nel ghiaccio, forse dalle donne per prendere l'acqua o dai vecchi per pescare, tiriamo su con le gavette acqua per bere. Beviamo quell'acqua fredda e aspettiamo che passino i carri armati battendo i piedi sul ghiaccio. Ma come faranno a passare di qua i panzer? Risaliamo la scarpata e qualcuno entra nelle prime isbe del villaggio. Ma c'è nervosismo in noi. L'autoblinda di poco prima, i camion incendiati, un silenzio strano. Parliamo sottovoce, pensando che i russi non dovrebbero essere lontani. Faccio postare le armi sull'orlo superiore della scarpata. Intanto la colonna si è mossa. Scendono lentamente verso di noi come un delta di fiume. Vediamo le strisce nere che si muovono sulla neve più chiara. Un po' più a monte di noi c'è un ponte di legno e i carri armati provano a passare uno alla volta. Ma sono pesanti i panzer e il ponte di legno è piccolo. Ce la farà a sostenerli? Tutta la nostra attenzione è lì, sulle assi del ponte. Il primo passa lentamente. Il ponte traballa tutto e scricchiola. Ora anche gli altri tentano di passare. Due soldati tedeschi sotto il ponte, uno da una parte e uno dall'altra, osservano le travature e ogni tanto gridano qualcosa. Uno alla volta, i panzer passano tutti. I primi della colonna sono già arrivati alle isbe del paese. I camini fumano. Staranno bollendo le patate. Qualcuno dormirà già. E noi siamo sempre qui, con le armi piazzate. Penso che sarebbe meglio andarcene anche noi, al caldo, con loro. Chi è che ci fa stare qui al freddo con le armi piazzate? Perché lo facciamo? Il maggiore Bracchi è andato via con un ufficiale tedesco e i nostri ufficiali ci hanno detto di restare qui. Finalmente qualcuno viene a dirci che possiamo anche noi entrare in paese. Ma poi ci faranno ancora aspettare sulla strada, davanti a un grande edificio in mattoni rossi. Poi entriamo. Ci stipiamo nelle stanze. Alcuni hanno trovato anche della paglia. Si sono sdraiati e dormono. Tardivelle e Artico, i caporal maggiori del secondo plotone fucilieri, hanno acceso il fuoco in un angolo della stanza e fanno bollire galletta e scatoletta. Il locale è pieno di fumo, ma è vasto e freddo. Siamo dentro in due plotoni. Nella tasca del pastrano ho ancora del caffè in chicchi e lo pesto nell'elmetto con il manico della baionetta. Non ho niente da mangiare. Nella cacciatora trovo alcune tavolette di meta. Le accendo e con l'acqua della borraccia riempita al fiume tento di farmi un po' di caffè. Ma l'acqua non vuol saperne di bollire. Il meta fa poco calore. Ho sonno, molto sonno. Sento che i miei compagni già russano e io sono intestardito a voler fare il caffè e l'acqua non bolle. I fuochi sono spenti e tutti dormono. Dalle finestre senza vetri entra il gelo della notte. Gli alpini sono uno addosso all'altro per riscaldarsi. Fucili ed elmetti sono allineati attorno alle pareti. Qualcuno nel sonno si lamenta e uno in un angolo, solo e triste, si osserva un piede. Poi, lentamente se lo sfrega e se lo fascia con un pezzo di coperta. Si è acceso vicino un mozzicone di candela, l'ha incollato al coperchio della gavetta. L'acqua non bolle ancora, allora butto dentro il caffè pestato e bevo tutto. Mi sdraio. I piedi sono come due pezzi di sasso bianco, ma non voglio levarmi le scarpe. Mi rannicchio. Vorrei farmi entrare le gambe nel ventre, le braccia nel petto, ma con questo freddo non si può dormire. Allarmi! Allarmi! Sento il capitano che mi chiama. Rigoni, scendi immediatamente con le armi, adunata! Grida e bestemmia. Io salto in piedi, non ho ancora dormito un minuto e grido: sveglia! Sveglia, fate presto! E calma! Succede un trambusto generale. Chi si era levate le scarpe non è più capace di rimetterle perché i piedi si sono gonfiati, le scarpe sono dure come il legno. Chi cerca il fucile, chi l'elmetto, qualche altro ha un sonno pesantissimo e lo sveglio a scossoni. Per le scale e i corridoi vi è una confusione peggiore. Lì sono gli artiglieri del Val Camonica. Si passa a fatica, non senza inciampare in qualcuno che non si può alzare, e si lamenta. Fuori, davanti all'edificio, ci raduniamo. Molti uomini mancano, né si capisce dove siano. Mi manca anche un'arma, ma è quella che non funziona. Il capitano entra nell'edificio e nello stanzone trova l'arma che manca. Quando scende, se la prende con me. Capitano, dico, l'ho lasciata lì io perché non funziona. È tutta scassata, portarla è un peso inutile. Guardate in che condizioni siamo. Abbiamo anche poche munizioni. Ma queste ragioni il capitano non le intende e risalgo io stesso a prenderla. I plotoni di moscioni, cenci, pendoli sono già spariti, inghiottiti nel buio in direzioni diverse. Con il tenente che fa il bravaccio andiamo con le tre pesanti verso le ultime isbe a sinistra del paese. Faccio star sotto gli alpini del mio plotone e come un cane da pastore vado avanti e indietro. Sotto Bodei, forza Turn, cammina Bosio, venite avanti con le cassette di munizioni. E così arriviamo nel luogo assegnatoci dal capitano. Chissà che cosa è successo. Forse ci stanno venendo addosso i russi. Non riesco a rendermi conto della situazione. Ogni tanto sentiamo degli spari alla nostra destra. Postiamo le armi pronte per far fuoco. Una all'angolo di un'isba e l'altra davanti a un piccolo cocuzzolo. Faccio puntare in due direzioni differenti, così a istinto, verso la steppa. È notte fonda, forse le 2 del mattino. Il cielo si copre lentamente e la luna, che sta tramontando alle nostre spalle tra uno squarcio e l'altro delle nubi, illumina la steppa davanti a noi. Quando esce, dico ai miei compagni di mettersi nell'ombra. Il tenente entra nell'isba più vicina. Sono povere isbe, più povere delle solite, piccole e fredde anche a guardarle. Ma il tenente esce subito impugnando la pistola, mi grida di correre da lui. Vado ed entro con una bomba in mano. Vi sono due donne e dei bambini e vuole che li leghi. Penso che il tenente stia proprio perdendo la ragione. Le donne e i bambini hanno capito e mi guardano con occhi terrorizzati. Piangendo si rivolgono a me parlando in russo. Che voce avevano le donne e i bambini. Sembrava il dolore di tutta l'umanità e la speranza e la rivolta contro tutto il male. Prendo per un braccio il tenente ed usciamo. Il tenente, sempre impugnando la pistola, entra in un'altra isba. Lo seguo. Qui trovo dei soldati sbandati della divisione Vicenza. Stanno rannicchiati sotto il tavolo, disarmati, semiassiderati, pieni di paura. Su un letto di ferro c'è un vecchio. Il tenente mi grida: è un partigiano, ammazzalo! Il povero vecchio mi guarda sospirando e tremando tutto da far ballare il letto. Legalo, se non vuoi ammazzarlo, mi grida ancora il tenente. Antonelli è entrato nell'isba, ha visto tutto. Il tenente mi indica in un angolo un pezzo di corda. È proprio pazzo. Mi chino lentamente a prendere la corda. Antonelli leva le coperte al vecchio e mi avvicino. Il vecchio è un povero paralitico. Getto via la corda e dico al tenente: che partigiano, è un paralitico! Il tenente esce dall'isba. Si vede che ha ancora un briciolo di ragione. Sotto il tavolo vi sono sempre quei poveri diavoli della Vicenza pieni di paura. Io li invito a venire con noi. Non m'affido, dicono e rimangono. Esco con Antonelli e lasciamo in pace quella povera gente. Sotto, dove è appostata un'arma, proprio sottoterra, sento dei bisbigli. C'è una botola. È uno di quei buchi in cui i russi ripongono le provviste per l'inverno, una specie di cantina vicino all'isba. Tiro sulla botola. Vediamo giù un lume acceso e donne e bambini stretti lì sotto. Salgono la scaletta ed escono fuori uno alla volta con le mani alzate. Mi viene da sorridere, ma i bambini piangono. Ma quanti sono? Non finiscono mai. Antonelli ride e dice: c'è un formicaio là sotto. Mando tutta quella gente nelle isbe e ci vanno contenti e di corsa. Fortuna per loro che il tenente non si è accorto di niente. Dopo un po', un ragazzino ci porta delle patate calde, bollite. Due bombe di artiglieria passano sibilando sopra di noi e scoppiano all'altra estremità del paese. Mi accorgo che due colonne nella steppa stanno venendo verso di noi. Russi o nostri sbandati? Sono ancora lontani ed è notte. Ogni tanto la luna esce a illuminare la steppa, ma ora si è fatto quasi completamente buio. Il tenente è ritornato. Si è accorto anche lui della gente che sta venendo verso di noi. Forse è ritornato per questo. Sparate, dice. Sparate, avanti, sparate! No, dico io. Non sparate. State calmi, non fate rumore. Le armi erano piazzate e il tenente diceva: sparate, sparate, vi dico. E io: no, bisogna aspettare che siano più vicini, abbiamo poche munizioni e poi potrebbero anche essere italiani o tedeschi. I pochi uomini che mi sono rimasti dei 50 del plotone hanno ancora fiducia in me e non sparano. È matto il tenente, dice Antonelli. È matto, dice qualcun altro, perché sparare? Non c'è nessuna necessità. Sparano per il paese. Che succede ora? Pallottole sperdute passano miagolando fra gli orti e le isbe, ma il nostro angolo è tranquillo. Ramazzini, un portaordine in gamba di Collio Valtrompia, viene di corsa e mi dice trafelato: presto Rigoni, fa presto, bisogna che tu ti riunisca con la compagnia. Come ombre smontiamo le armi e ce le carichiamo in spalla con le munizioni e in fila, senza dire una parola, ritorniamo presso l'edificio in mattoni. Non troviamo nessuno dei nostri, la compagnia è partita senza aspettarci. Il paese è tutto in trambusto, slitte che si incrociano, ufficiali che gridano, gente che va in ogni direzione. Infine, la colonna si forma. Camminiamo in fretta ai lati della pista per portarci avanti e raggiungere la compagnia. Ma è più faticoso, perché dobbiamo batterci la strada nella neve fresca. Bombe scoppiano davanti e dietro di noi. Qualche volta colpiscono in pieno la colonna. Ma è tutto così apatico e freddo. Si bada ai colpi di artiglieria come i morsi dei pidocchi. Viene l'alba. livida e grigia, incomincia a nevicare. Guardo indietro. Siamo rimasti in pochi, forse 10. Ma le armi le abbiamo, sempre con noi. Manca qualche cassetta di munizioni. Nemmeno il tenente c'è. Chissà dove sarà rimasto. Camminiamo ancora ai lati della colonna, fiancheggiando un bosco di abeti. Siamo tutti bianchi di neve come gli abeti. Un tedesco, aviatore dalla divisa, cammina lentamente davanti a noi, ai piedi fasciati di stracci. Lo sorpassiamo. Sorpassiamo qualche slitta di tedeschi e di ungheresi. Ora si sono fermati tutti, perché alla testa della colonna sparano. Noi continuiamo a camminare. Troviamo gli artiglieri alpini. Qui siamo tra i nostri, avanti ancora. Finalmente raggiungiamo la nostra compagnia. Il capitano ci vede arrivare e non dice niente. Stiamo fermi. In testa c'è il Valchiese. Si sentono sparare le nostre pesanti e il gruppo Bergamo mette in batteria i pezzi. Bisogna conquistare un altro paese per passare. Ma sparano poco. Si riprende a camminare, lentamente. E così ora ci sembra di riposare. Veniamo raggiunti da qualche altro alpino del nostro plotone. Qua e là, sulla neve, si vedono dei bossoli vuoti. Macchie nere di scoppi, solchi di cingoli dei panzer. Il paese è rivolto a levante, dietro una mugila. Scende verso il fondo di una balca ed è circondato da alberi da frutto. Si sentono abbaiare i cani nell'aria chiusa dalla neve. Il maggiore passa tra di noi e dice: «Qui riposeremo, andate nelle isbe, mangiate e dormite. Forse si ripartirà domattina». A noi non sembra vero poter riposare tutta una notte. Al caldo, tutta la notte. Andrea Pennacchi ha letto Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. A cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.